Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, oggi tocchiamo un argomento che mi sembra interessante perché fa capire tra le righe come cambiano i tempi, anche a seconda di come la gente consuma i prodotti che magari non compra più dal supermercato. Sì, parliamo di un argomento che ha suscitato grande interesse anche da parte nostra, perché è vero che su tante volte abbiamo parlato di biologico, di ipermercati, di catene di distribuzione di ogni genere, di ogni colore. Oggi parliamo di persone che sostanzialmente vanno a comprare la spesa da contadino. Infatti il titolo dell'articolo è "Il contadino batte la globalizzazione" e addirittura risulta come negli ultimi 5 anni gli italiani che ci sono rivolti ai contadini sono triplicati. Significa persone che vanno sostanzialmente ad acquistare la spesa nelle fattorie o nelle aziende agricole, con un conto stimato approssimativamente di 15 milioni di persone che si sono recati nel 2015, per un totale praticamente di una persona su quattro. Quindi parliamo di dati molto importanti e che soprattutto in un periodo di crisi vanno contro tendenza. Ecco, probabilmente questa persona su quattro sono persone che abitano fuori dalle città, mi viene da pensare, perché insomma è difficile che uno che è di città prenda e vada fuori in campagna dal contadino a comprarsi la merce, anche se forse una mano in questo la danno i gruppi solidali di acquisto solidale, no? Sì, ci sono i gruppi solidali, però è vero che nell'indagine è emerso come le persone oggi sono disposte anche a spendere di più, e io aggiungo a spostarsi, per ricercare la qualità. Dobbiamo dire che addirittura il 70% degli italiani ha dichiarato di essere disposto a pagare di più un alimento se questo alimento risulta essere naturale. Quando parliamo di spese dal contadino, quindi spese in azienda agraria, dobbiamo ricordare che non si parla solo di frutta e verdura, ma parliamo di agribirre, parliamo di latte comprato in stalla, di tutti i derivati come per esempio i formaggi, ma parliamo anche di agricosmetici e di pane, miele, olio e vino. Quindi una spesa che allarga una gamma di prodotti molto ampio e che quindi addirittura arriva quasi a sostituirsi con la carne a quelli che sono gli acquisti tradizionali che normalmente vengono fatti presso i mari nei centri commerciali o negozi sotto casa. È interessantissima questa cosa. Ricordiamo che poi piano piano anche le varie categorie di artigiani, immagino i panifici, si stanno preparando per cercare di vendere prodotti di alta qualità che seguono un disciplinare con il pane di alta qualità, come è stato fatto una volta insomma con il latte e via via dicendo. Quindi piano piano c'è un'accortezza anche proprio per cercare di fornire la miglior qualità, la miglior garanzia al consumatore. Adesso bisognerà vedere se cambierà qualcosa con il famoso TTIP, no? Sì, certamente questo sarà un altro fenomeno che noi stiamo monitorando sempre in maniera molto attenta, ma certamente bisogna anche dare altri dati per dare una dimensione di questo fenomeno. Oltre a un italiano su quattro, ricordiamo che le aziende agricole che sono nate sono oltre 10.000 e la varietà dei prodotti vegetali sono oltre 100. E parliamo di 30 latte tra bovini, maiali, pecore e capre, quindi allevati su scala ridotta. Quindi un fenomeno certamente di tutto rispetto e che sicuramente potrà dare anche un contributo a migliorare la qualità della vita, perché come detto all'inizio il 70% delle persone ha dichiarato che è disposto anche a pagare qualcosina di più se sa cosa mangia. Ricordiamo anche il fenomeno del biologico, che è sempre stato in continua crescita, e quindi alle promozioni e ai centri commerciali, ecco, anche questa tipicità di acquisto dei prodotti sicuramente assume una grandissima rilevanza. Ecco, forse in tutto questo c'entra il fatto che le persone sono sempre più consapevoli che magari è meglio spendere qualcosa in più sul cibo, che può risultare anche effettivamente più buono al gusto, che poi andare a spendere i soldi in medicine. Certamente mangiare bene e in maniera consapevole sicuramente aiuta a migliorare la qualità della vita, sicuramente migliora anche sotto il punto di vista di una prevenzione sanitaria su quelle che possono essere certe patologie. Noi aggiungiamo che abbinato a un po' di esercizio fisico sicuramente sono un ottimo elisir che ci può aiutare ad allungare la vita. Allora andiamo, il massimo sarebbe andare in bicicletta a fare la spesa in campagna e così avremmo fatto l'en plein. Grazie per questi dettagli che ci hai raccontato, Carlo. L'appuntamento con l'ADICO, Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritorna fra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.